Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di economia a colori, che è il titolo del libro di Andrea Segre. Buonasera Segre. Buonasera. Andrea Segre insegna politica agraria internazionale comparata all'Università di Bologna, è preside della facoltà di agraria, presidente di Last Medium Market, un market dell'ultimo minuto, poi ci spiegherà perché, ma cominciamo dal libro Economia a colori, è un libro in cui si parla appunto dei fondamentali dell'economia, di un'analisi dell'economia attuale secondo questa prospettiva. Ci sono tanti colori dell'economia, possiamo chiederle magari per cominciare qual è il colore che le piace di più? Stavo per dire arcobaleno, ma poi non vorrei che si confondesse con l'economia della pace. In realtà l'economia da sola non ci sta, è una scienza, diciamo, triste, poi si autodefinisce così, e forse possiamo rallegrarla un po' in questi tempi così cupi, e allora viene fuori che ci sono tanti colori, tante sfumature, il verde, il blu, il rosso della contabilità naturale che non c'è, che potrebbero essere messi assieme in una sorta di tavolozza che renderebbe questa economia più allegra, forse anche più relazionale e capace di farci uscire da questa crisi. Ecco, io mi aspettavo che mi dicesse subito il verde, perché in fondo poi il tema un po' del libro è che l'economia deve fare rima con ecologia. Sì, ma in realtà il verde, adesso io parlo anche del verdastro, perché sembra che con un prefisso colorato, eco verde, possa fare tutto e risolvere anche i limiti ecologici che questo nostro mondo ha. Però poi ci concentriamo troppo su un colore, diventiamo quasi un po' ideologici, insomma. Allora invece io vorrei proprio partire dai fatti, e i fatti sono che le risorse naturali sono limitate, lo sappiamo bene, il suolo, l'acqua, l'aria, e quindi anche una parte dell'economia, quella legata ai consumi materiali, dovrebbe essere altrettanto limitata, ma questo non significa non produrre più e non consumare più. Forse dovremmo essere, diciamo, più attenti, più responsabili, forse più sostenibili, produrre qualcosa di diverso e promuovere anche dei lavori diversi. Viene fuori, diciamo, un'idea per adesso di, io la chiamo ecologia economica, nel senso di far capire che l'economia sta dentro l'ecologia, ma è quasi un gioco grammaticale, anzi vorrei dire di logica semantica, perché eco casa, ecco, vi sembra normale che la casa piccola, la gestione della nostra, l'economia letteralmente così, possa contenere la casa grande, l'ecologia, cioè la gestione della natura, dell'ambiente? No, e allora dobbiamo capire che l'economia è uno strumento importante che però sta dentro, e a quel punto ci renderemo anche conto dei limiti. Quindi è un'economia che ha bisogno un po' di tutti i colori, per tornare un po' al tema del libro, di tutti gli aspetti, però rimettendo al centro un po' la responsabilità delle persone nell'utilizzare le risorse, nell'utilizzare quelle che sono le potenzialità. Lei ha lanciato negli anni scorsi una campagna europea contro lo spreco, è questo uno dei temi fondamentali per ridare all'economia un'efficienza giusta, possiamo chiamarla così? Ma esattamente questo, perché lo spreco, che sembrava ai più, anche a me, un fallimento del mercato, siamo lì per produrre, per vendere, poi si generano delle eccedenze che non riusciamo a consumare, ad acquistare, e dobbiamo smaltirle, e questo ha un costo economico e un costo ambientale. In realtà può essere l'occasione per invertire il sistema in qualche modo e capire che la crisi può essere superata proprio spezzando la parola spreco. Da una parte c'è la parte, appunto, diciamo negativa, con un meno davanti, dobbiamo ridurre queste eccedenze, rendere il mercato più efficiente, o se vogliamo più ecoefficiente. Dall'altra parte c'è la seconda parola, eco, casa grande, natura, ecco, andiamo verso la sostenibilità, verso la durata, e con nuovi comportamenti anche più relazionali. Noi appunto abbiamo messo in piedi uno spin-off dell'Università di Bologna, non è beneficenza, non è associazionismo, è una nuova professione che recupera ciò che si getta via, dandolo a chi ha bisogno, e questa azione del dare in realtà è un dono, ci fa vedere che anche l'economia del dono non è un ossimoro, ma è una economia che crea un valore molto forte, quello della relazione. Il bene che recuperi diventa un bene relazionale ed è un valore che si scambia, anche se gli antropologi parlano di scambio di anime, ma questo si consuma tutto e non si spreca. Ecco, allora la visione di una società post-spreco e di un'economia che metta al centro veramente l'uomo e le sue relazioni, staremo tutti un po' meglio, io penso. Ecco, lei dice nel libro: la moneta di scambio non è il denaro, ma la relazione, non crea profitti, ma genera valori. Il suo bilancio non è consolidato, ma è intangibile. Non usa macchine, ma acuisce i sensi per l'emergenza dell'umano. Non impone leggi e confini, ma sprigiona l'istinto alla cura e alla condivisione. È democratica, plurima, equa, sostenibile, solidale, contingente. Ecco, non è un po' un'utopia, professor Segre? Sì, forse lo è, però se non rendiamo in qualche modo queste utopie concrete, e il nostro piccolo laboratorio di Last Minute Market ci fa vedere che questa economia è possibile, considerando che forse anche gli economisti, e mi ci metto anch'io, seppure sia proprio uno di quelli applicati, di campo, insomma, che guarda il mondo dal basso all'alto, se non altro perché vedo le piante crescere, però queste piante non crescono all'infinito. Qualcuno diceva: gli alberi non crescono fino in cielo. Allora dobbiamo renderci conto che oltre un certo livello non ci conviene proprio andare, quindi è un'utopia, è vero, però è molto concreta nel momento in cui l'attuazione diventa più consapevole, più responsabile. È inutile accumulare, che poi dopo dobbiamo rifiutare, e questo sarebbe il meno, ma dobbiamo anche poi sprecare, buttare via qualcosa che è ancora consumabile e utilizzabile. E purtroppo di questo non si ha una grande consapevolezza nonostante la crisi, quindi credo che sia possibile, se non necessaria, anzi vorrei dire, mi spingo, la crisi ha questo aspetto positivo che mette in discussione alcuni dei nostri comportamenti dati, come posso dire, per standard ormai ineludibili, invece non è così. Ecco, ma lei appunto, tra l'altro nella stessa copertina del libro si dice: per uscire dalla crisi del capitalismo dobbiamo cambiare prospettiva e proporzioni, rimettere al centro l'ecologia, l'economia dovrà essere solo una piccola parte dell'ecomondo, la nostra grande casa, un'idea di società fondata sull'ecologia economica. Quindi è un problema di comportamenti, ma è anche un problema di strutture, è anche un problema di regole? Ma io direi di sì, perché naturalmente noi dobbiamo partire dai consumatori, da noi stessi, e quindi essere, diciamo, consapevoli che la nostra sovranità, in economia di mercato si dice che il consumatore è sovrano, non dobbiamo delegarla a qualcun altro. Certo però che se le nostre azioni singole, mai pieno in Italia, in Europa, nel mondo, di gruppi, associazioni, movimenti, la decrescita, la sobrietà, la semplicità, i gruppi di acquisto solidali, i bilanci di giustizia, potrei andare avanti, che si pongono nella pratica questi obiettivi, solo che non riescono in qualche modo a connettersi concretamente, perché va bene criticare il sistema se la critica è costruttiva e pone un'alternativa, però poi bisogna fare massa critica in modo da orientare il mercato in una direzione. Nessuno pensa di fare delle rivoluzioni, però un orientamento del mercato, dunque delle imprese, dunque del lavoro, verso la sostenibilità, vuoi chiamarla economia blu, economia verde, c'è già nei fatti, basta saperla vedere, e la politica dovrebbe orientare e aiutare questa transizione lenta, in modo che poi la società, l'economia possano assorbire questo cambiamento che io penso sia ineludibile. Anche perché una decrescita tout court, una decrescita reale, potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva, perché forse una decrescita così come viene propagandata in certe prospettive può più amplificare le disuguaglianze che non risolvere veramente i problemi. Della decrescita, tipo il messaggio, diciamo, di Serge Latouche, è più una filosofia, è un percorso quasi utopico che pone dei problemi, ma poi chi decide chi decresce e come? La mia proposta, io la chiamo piuttosto società della sufficienza, per far capire che oltre un certo limite anche nei consumi materiali è inutile andare, perché poi generiamo delle esternalità negative, ambientali e anche economiche, e invece abbiamo uno spazio enorme di aumentare i consumi immateriali, dove c'è un'economia molto importante. Io poi mi riferisco alla ricerca, all'istruzione, perché sono i campi molto vicino a me, ma c'è tutto il resto in termini di economia digitale. E quindi è una questione proprio di prospettive e di proporzioni, senza postulare una, credo, impossibile decrescita, nel senso che non solo uno deve decidere chi la propone, chi la impone forse, ma dobbiamo trovare delle soluzioni concrete, praticabili. Ecco, l'idea della sufficienza, di questa ecologia economica, secondo me, potrebbe rimettere, diciamo, in moto un sistema nelle giuste forme, nelle giuste proporzioni. E questo potrebbe anche dare spazio a quella fiducia in fondo nel futuro, che è uno degli ingredienti, per concludere, che forse manca in questa fase della società e dell'economia. È proprio questo. Allora io dico che in questa tavolozza dei colori, ecco, manca adesso un ingrediente, chiamiamolo così, importante, che è la fiducia e la speranza, perché la crisi di oggi e i sacrifici che siamo necessariamente portati a fare deve farci vedere il futuro. Allora immagino un po' la filastrocca, per concludere, di Gianni Rodari, in cui racconta ai bambini che la speranza si può anche vendere, non costa niente, tutti la comprerebbero, ecco, però ci dà quella prospettiva in cui credere sostanzialmente che un futuro è possibile, e io credo che lo sia, pensando non tanto e non solo ai nostri figli, ma anche a noi, perché in fondo sono un po' egoista, vorrei vedere qualche risultato subito. Grazie, grazie professor Segre, Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria, ha scritto il libro Economia a colori, edito da Einaudi, sono 124 pagine per 10 euro, quindi è un costo sostenibile, soprattutto se poi dopo averlo letto lo farete leggere anche a qualcun altro. Grazie professor Segre, così come ringrazio Peter Bascapè in regia e Luca Cremonesi in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo. Thank you.